Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Distilleria Berta. Dal cuore del Monferrato, una grappa apprezzata nel mondo. Di Deborah Rosciani. La storia di oggi parla di grappa e attraversa quattro generazioni. È la storia della distilleria dei fratelli Berta di Casalotto di Monbaruzzo. Inizia l'11 luglio 1866 con Francesco Berta e l'ispirazione dello zio farmacista per arrivare a creare una distilleria modernissima nel cuore del Monferrato. Oggi, alla guida dell'azienda, ci sono Gianfranco Berta, che si occupa della produzione, ed Enrico, che si occupa della commercializzazione. Lo incontriamo in occasione del raduno annuale della Confraternita degli Acquavitieri, incontro in cui si snoda il racconto di questa storia imprenditoriale. Nasce tutto da un nonno agricoltore in quel di Casalotto di Monbaruzzo, dove ci troviamo adesso, e uno zio farmacista. Quindi un connubio fra il mondo agricolo e le vecchie farmacie di una volta. 1947, nostro padre Paolo finisce gli studi in enologia ad Alba. Innamorato dell'erboristeria e della distilleria, fonda la prima azienda, inizia Monferrato. Dalle vigne e la cantina di oltre un secolo fa ad un'azienda che oggi porta le sue bottiglie di grappa in tutto il mondo. Un'azienda che occupa circa 40 persone, con un 12 milioni di euro di fatturato, con un'esportazione che raggiunge il 56% in 74 paesi del mondo. Dalle 4 alle 500 mila bottiglie che girano per il mondo. Non è importante la quantità, è mandare per il mondo un messaggio di grande qualità. È quello che noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare. Presenza territoriale su larga scala, la scelta distributiva non guarda alla grande distribuzione, ma resta quella di commercializzare attraverso negozi specializzati. Non eravamo pronti, come non siamo pronti tuttora, a soddisfare le esigenze della grande distribuzione. Perché nasciamo artigiani convinti che è meglio tanti clienti, frazionando anche il rischio, conoscendo personalmente gran parte dei nostri clienti. Le potenzialità per conquistare nuovi mercati sono oggi enormi, spiega Enrico Berta. Anche se l'Italia rimane comunque il paese che apprezza di più la grappa di Monbaruzzo, oggi i paesi dove il prodotto viene distribuito sono molti, in Europa e fuori dall'Europa. Di sbocco sicuramente sono i nuovi mercati di cui tutti parlano, perché c'è una popolazione molto ampia che è disponibile a conoscere e apprezza il Made in Italy. Sicuramente l'Italia e dopo l'Italia la Svizzera, la Germania, il Belgio, tutti diciamo i paesi della nostra vecchia Europa, aprendo degli spazi straordinari sul Giappone ormai 25 anni fa, ci permette di far sì che il nostro prodotto venga distribuito in più paesi e quindi avere bandierine importanti di un Made in Italy che conta sempre di più. Il lavoro riguarda la produzione, ma anche l'innovazione dell'immagine del prodotto. In questa direzione vanno le nuove bottiglie, come la Beuta Berta, un formato abituale nei laboratori di analisi, ma che viene adottato dalla distilleria per dare un'immagine più identificabile al prodotto. Diciamo che il prodotto più importante che oggi facciamo si chiama Riserva del fondatore, Paolo Berta. È una grappa invecchiata 20 anni ed è dedicata a nostro padre, che è colui che ci ha dato l'opportunità di essere qui oggi. Caratteristiche dello stabilimento di Monbaruzzo sono anche architettoniche. Sicuramente un bassissimo impatto ambientale, una struttura edificata senza offendere l'occhio e senza offendere quello che è la vista di un territorio straordinario che potrebbe diventare patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi un territorio sul quale veramente sarebbe un grande peccato edificare in una maniera selvaggia. E anche le caratteristiche delle vigne e delle cantine devono rispondere a requisiti ben precisi. Avere delle vinacce straordinarie. Le vinacce straordinarie si ottengono dai produttori di grandissima qualità, produttori vinicoli, logicamente. Il sistema di stoccaggio affinché non prenda né aria né acqua che potrebbe deteriorare il prodotto e una grande maestria nella capacità della distillazione. Ed infine tanti legni, tanti, con tanta grappa che riposa per un minimo di un anno e un massimo di 30 anni. Come deve essere una grappa di qualità che può essere apprezzata da ogni palato? Su quali caratteristiche puntare? Ma sicuramente deve essere una grappa che non uccide l'olfatto, una grappa che si porti dietro la parte aromatica della vinaccia. Quindi un prodotto che possa essere tranquillamente servito in tutto il mondo, su tutti i tavoli del mondo. Quindi la riscoperta di un prodotto made in Italy, quindi italiano, perché per grappa si può solo intendere, si può solo fare in Italia, e un prodotto che porti dietro quelle caratteristiche di piacevolezza che ci possono aiutare a conquistare i mercati e i palati più importanti del mondo. Non contano i numeri, è la convinzione dei fratelli Berta, quanto far circolare un prodotto di qualità. Cosa significa qualità nel settore delle distillerie? E cosa vuol dire in questo campo fare innovazione? Sicuramente, essendo il nostro un settore, secondo me, ancora recente, con tante cose ancora da dire, l'innovazione tecnologica può portare sicuramente dei grandi miglioramenti. L'innovazione sono la costruzione di impianti di distillazione nuovi, moderni, che riescono a estrarre la parte aromatica della buccia, l'eliminazione di alcuni difetti che la grappa si portava dietro storicamente. Quindi la ricerca, che è una continua ricerca di qualità, passando dallo stoccaggio della materia prima per arrivare alla parte finale della distillazione. Quanto risente oggi questa azienda del calo dei consumi? Come viene incontro alla clientela un'azienda come questa? Andando incontro al cliente, quindi cercando di assecondarlo nelle esigenze, senza pensare di torturarlo, ma standogli vicino, abbassando il porto franco per le bottiglie consegnate, cercando di essere collaborativi con il nostro cliente, cercando di dargli la fiducia che il cliente meritava, anche in un periodo dove c'erano dei grandi restringimenti dal punto di vista finanziario e bancario. Noi abbiamo cercato di stargli vicino. Quattro generazioni, ma cosa sta dando la quarta all'azienda? Ma noi abbiamo cercato di fare il nostro piccolo senza pensare di essere gli inventori del farmaco salvavita. Noi siamo della povera gente applicata al lavoro. Ci piace lavorare seriamente e noi pensiamo che questo alla fine paghi. Intanto la quarta generazione sta accompagnando i primi passi della quinta. Il futuro della grappa Berta sembra sempre più femminile. Mia nipote, Anna Carla, è già entrata in azienda, e anche se deve finire, ultimare il corso universitario. Per il momento, come ci aveva insegnato nostro padre, fa il percorso, quindi deve imparare a fare tutto. Deve essere in grado di fare tutto all'interno della nostra azienda. Pur nell'approccio commerciale necessariamente internazionale, il radicamento nel territorio è irrinunciabile. Ma, secondo Enrico Berta, l'importante è portare nel mondo il valore del Made in Italy. Cerco sempre di fare un gioco di squadra, nel senso che io amo parlare dell'Italia e della bellezza dell'Italia e le eccellenze dell'Italia. Laddove c'è eccellenza c'è spazio anche per la grappa. Non a rimorchio, ma quando parli di Made in Italy è veramente determinante che ci si riesca a far sistema. Quindi dimenticando i feudi, dimenticando le province, dimenticando le regioni, parlando dell'Italia che va da Bolzano all'isola, dall'Alto Adige all'isola di Pantelleria. La straordinarietà del nostro territorio ci permette e ci potrà permettere di uscire da questo momento buio. La provincia di Asti ci ha dato tanto, ma ripeto, preferisco parlare dell'eccellenza italiana. Io sono un portatore, quando nei miei 32 anni di lavoro sono stato in giro per il mondo, non ho mai parlato del territorio Asti, Monbaluzzo, Casalotto, Nizza, Monferrato, ho sempre parlato dell'Italia. Sono orgoglioso di aver inventato noi italiani la pizza, sono orgoglioso di avere dei salti di eccellenza nelle cravatte come Marinella, sono orgoglioso del nostro paese ed è un bene prezioso per noi italiani. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.